Mogli e figlie di Elizabeth Gaskell, edizioni Jo March. Capitolo 1. L'alba di un giorno di gala. Cominciamo con un'antica cantilena d'infanzia. In un paese c'era una contea e in quella contea c'era una città e in quella città c'era una casa. E in quella casa c'era una stanza, e in quella stanza c'era un letto, e in quel letto giaceva una ragazzina, completamente sveglia e desiderosa di alzarsi, ma che non osava farlo per paura del potere invisibile che si trovava nella stanza accanto. Una certa Betty, i cui sonni non dovevano essere disturbati fino alle 6 in punto, quando ella si svegliava puntuale come un orologio. E da quel momento in poi lasciava ben poca tranquillità alla famiglia. Era una mattina di giugno e sebbene fosse presto, la stanza era piena di calore, di sole e di luce. Sulla cassettiera di fronte al lettino, in tessuto di cotone bianco su cui era stesa Molly Gibson, si trovava un semplice sostegno per copricapi a cui era appeso un cappellino, debitamente protetto dal minimo granello di polvere da un largo fazzoletto di cotone. Il quale era di un tessuto così pesante e robusto che se la cosuccia che ricopriva fosse stata di leggera mussolina con pizzi e fiori, sarebbe stata completamente spacciata, per citare dal vocabolario di Betty. Ma il cappellino era fatto di solida paglia e la sua unica decorazione era un semplice nastro bianco che girava intorno alla calotta e formava i lacci. Ma all'interno c'era una bella plissettatura di cui Molly conosceva ogni singola piega, perché non ci aveva speso lei stessa la serata precedente con infinite sofferenze? E non c'era in quella pieghettatura un fiocchetto azzurro, che era il primo articolo elegante che lei avesse mai avuto occasione di indossare? Erano le 6, lo diceva il piacevole e vivace rintocco delle campane della chiesa che chiamavano ciascuno al suo lavoro, come facevano da centinaia di anni. Molly si alzò con un balzo, corse attraverso la stanza con i piedini nudi, sollevò il fazzoletto e rivide il cappellino, promessa dell'allegra giornata che aveva davanti a sé. Poi si diresse alla finestra, aprì il vetro con qualche strattone e lasciò entrare la dolce aria del mattino. La rugiada aveva già abbandonato i fiori nel giardino sottostante, ma si levava ancora dall'erba alta dei prati appena più lontano. Da una parte c'era la piccola città di Hollingford, su una delle cui strade si apriva la porta d'ingresso di Mr. Gibson. Delicate colonne e lievi sbuffi di fumo già iniziavano a salire dai molti comignoli dei cottage, in cui una massaia era già in piedi, a preparare la colazione per colui che guadagnava il pane per la famiglia. Molly Gibson vide tutto questo, ma pensò solamente: sarà una bella giornata. Temevo che non sarebbe mai, mai arrivata, o se fosse arrivata, che sarebbe piovuto. 45 anni fa, i piaceri dei bambini in una città di provincia erano molto semplici e Molly era vissuta per 12 lunghi anni senza che si verificasse un evento così grandioso come quello che stava per accadere. Povera piccola. È vero che aveva perso la madre, cosa che costituiva una dissonanza rispetto al generale tenore della sua vita. Ma quello non era propriamente un evento nel senso a cui mi riferivo. Inoltre, lei era troppo giovane per rendersi conto all'epoca di quel fatto. Il piacere al quale oggi erano diretti i suoi pensieri era la sua prima partecipazione a una sorta di celebrazione che aveva luogo tutti gli anni a Hollingford. L'isolata cittadina si disperdeva da un lato nella campagna, nelle adiacenze di un padiglione da cui si aveva accesso a un vasto parco, residenza di Lord e Lady Cammer, il conte e la contessa, come erano sempre chiamate dagli abitanti del villaggio, in cui sopravviveva ancora una modesta portata di sentimento feudale, che si esprimeva in una serie di modi semplici, piuttosto buffi a considerarli ora, ma che al tempo erano questioni di seria importanza. Era prima che passasse il Reform Bill, ma occasionalmente due o tre fra i più illuminati titolari di proprietà fondiaria che vivevano a Hollingford intavolavano notevoli conversazioni di stampo liberale. Inoltre, nella contea c'era una grande famiglia di orientamento Whig che di quando in quando si faceva avanti e si metteva in competizione elettorale con la rivale famiglia Tory di Cammer. Si sarebbe potuto pensare che i già citati abitanti di Hollingford che parlavano in toni progressisti avessero almeno ammesso la possibilità di votare per quel Hayley Harrison che rappresentava la loro stessa opinione. Ma niente di tutto ciò. Il conte era il signore del palazzo e proprietario della maggior parte delle terre su cui Hollingford era stata costruita. Lui e la sua famiglia erano nutriti, curati e in una certa misura vestiti dalla brava gente del villaggio. I nonni dei loro padri avevano sempre votato per il figlio maggiore di Cammer Towers e, seguendo questa abitudine ancestrale, chiunque dava il proprio voto a quel signore, senza badare minimamente a simili chimere quali erano le opinioni politiche. Questo esempio dell'influenza che i grandi proprietari terrieri avevano sui vicini più umili non era infrequente a quei tempi, prima della ferrovia, ed era un bene per il luogo in cui la famiglia esercitava il potere che i suoi membri fossero rispettabili come erano i Cammer. Essi si aspettavano di essere obbediti e assecondati. La semplice venerazione degli abitanti del villaggio era considerata un diritto dal conte e dalla contessa. Costoro sarebbero rimasti attoniti e colti dall'orribile ricordo dei sanculotti francesi, che erano stati il bau bau della loro giovinezza. Se un qualunque cittadino di Hollingford avesse osato esprimere la sua volontà o le sue opinioni contro quelle del conte. Ma una volta ottenute la deferenza, si adoperavano benissimo per la città ed erano generalmente condiscendenti e spesso premurosi e gentili nel loro modo di trattare i vassalli. Lord Cammer era un proprietario tollerante, talvolta metteva un poco da parte il suo amministratore e prendeva personalmente le redini. Cosa che infastidiva notevolmente il suo intendente, il quale era in effetti troppo ricco e indipendente per curarsi in modo particolare di mantenere un posto dove le sue decisioni potevano in qualunque momento essere vanificate dall'improvviso sghiribizzo del signore di andare a lavoricchiare, come diceva l'intendente in modo irriverente, chiuso nel santuario di casa sua. Il che significava, volendo interpretare il termine, che il signore andava a fare personalmente delle domande ai suoi affittuari e usava i propri occhi e le proprie orecchie nella gestione di minimi dettagli relativi alla sua proprietà. I locatari, da parte loro, apprezzavano il padrone ancora di più proprio per questa sua abitudine. Lord Cammer aveva sicuramente una certa propensione al pettegolezzo, che faceva in modo di unire alla mancanza di una mediazione personale tra il vecchio amministratore e i fittavoli. Ma a quel punto la contessa, con la sua irraggiungibile dignità, compensava questa debolezza del conte. Lei era condiscendente una volta all'anno. Lei e le signorine, le figlie, avevano fondato una scuola. Non una scuola come sono quelle attuali, dove ai figli e alle figlie dei lavoranti e degli operai viene impartito un insegnamento intellettuale migliore di quello che spesso ricade su molti di coloro che appartengono a una classe sociale superiore, ma una scuola del tipo che potremmo definire industriosa, dove le ragazze imparavano a cucire meravigliosamente, a essere massaie di primo ordine, e brave cuoche, e soprattutto a indossare una sorta di uniforme di carità inventata dalle signore di Cammer Towers. Cuffietta bianca, stola bianca, grembiule a scacchi e abito blu, con di rigore pronte riverenze e come desiderate, signora. Ora, giacché la contessa si assentava dalle torri per una consistente parte dell'anno, era lieta di arruolare in questa scuola le simpatie delle signore di Hollingford, con l'intenzione di ottenerne l'aiuto in quanto vincitrici nei lunghi mesi in cui lei e le sue figlie erano via. Così, molte gentildonne, senza occupazione della città, rispondevano alla chiamata della loro signora e rendevano i servizi richiesti insieme a una buona quantità di mormorii di concitata ammirazione. Che gentile da parte della contessa, proprio tipico della cara contessa, pensare sempre agli altri, e via discorrendo. E si riteneva sempre che nessun forestiero avesse visto Hollingford nel modo giusto se non era stato condotto alla scuola della contessa, e se non era stato debitamente impressionato dalle linde piccole allieve e dell'ancor più lindo lavoro di cucito che veniva lì insegnato. In cambio, nel corso dell'estate, c'era un giorno d'onore in cui, con molta grazia e solenne ospitalità, Lady Kemnor e le sue figlie ricevevano tutte le visitatrici della scuola al centro del loro parco grande, di cui uno dei padiglioni si trovava vicinissimo alla città. Il programma di questa festa annuale era il seguente. Intorno alle 10, una delle carrozze delle torri passava attraverso il padiglione e si dirigeva alle varie case dove abitavano le donne che dovevano ricevere tale onore. Le raccoglieva una o due alla volta, finché carica tornava indietro, per superare di nuovo i portali che si aprivano prontamente sulla strada battuta ombreggiata dagli alberi, e depositava infine il suo convoglio di signore vestite di tutto punto sulla lunga fuga di gradini che conduceva ai poderosi portoni di Kemnor Towers. Poi, di nuovo al villaggio, un altro carico di donne nei loro abiti migliori e un altro ritorno, e così via finché tutta la compagnia era radunata nella casa o nei bellissimi giardini. Dopo la dovuta sfilza di ostentazioni da una parte e di espressioni ammirate dall'altra, alle visitatrici era offerto un pranzo leggero, insieme a un'ulteriore esposizione e contemplazione di tesori dentro casa. Verso le 4 si serviva il caffè. E questo era il segnale che la carrozza sarebbe presto venuta per accompagnarla a casa. E lì esse tornavano con la felice consapevolezza di una giornata ben spesa, ma con un certo affaticamento dovuto al prolungato sforzo di apparire al meglio di sé e di parlare sui trampoli per così tante ore. Nemmeno Lady Kemnor e le figlie erano libere da quel quid di approvazione di se stesse e contemporaneamente di stanchezza. Quella stanchezza che sempre consegue i consapevoli sforzi di comportarsi nel modo che più aggrada la società di cui si fa parte. Per la prima volta nella sua vita, Molly Gibson era inclusa fra gli ospiti delle torri. Era davvero troppo giovane per essere una delle visitatrici della scuola, perciò non era questa la ragione per cui era stata invitata. Ma era capitato che un giorno Lord Kemnor, nel corso di una delle sue escursioni per lavoricchiare, aveva incontrato Mr. Gibson, il medico del circondario, che usciva dalla fattoria in cui Milor stava per entrare, e avendo alcune domande da porgli, era raro che Lord Kemnor incrociasse una delle sue conoscenze senza fargli una domanda di qualche tipo, e non sempre si curava della risposta, era il suo modo di fare conversazione. Accompagnò Mr. Gibson all'esterno e proprio verso l'anello attaccato al muro a cui era legato il cavallo del dottore. C'era lì anche Molly, seduta quiete e composta sul suo piccolo pony dimesso in attesa del padre. I suoi occhi seri si spalancarono per la vicinanza e l'evidente avanzata del conte. Per la sua giovane fantasia, infatti, quell'uomo un po' goffo, con i capelli grigi e la faccia rossa, era un incrocio tra un arcangelo e un re. Vostra figlia, Gibson? Una ragazzina graziosa. Quanti anni ha? Ma il pony ha bisogno di una strigliata, aggiunse dandogli un buffetto. Come ti chiami, cara? Purtroppo costui è molto in arretrato con l'affitto, come dicevo, ma se davvero è malato, deve andare a cercare Sheepshanks, che è un uomo capace d'affari. Cosa lamenta? Giovedì, bambina. Verrai la nostra adunata scolastica. Com'è che ti chiami? Mi raccomando di portarla o di mandarcela, Gibson, e dite una parola al vostro stalliere perché sono sicuro che il pony l'anno scorso non è stato strenato, vero? Non dimenticarti di giovedì, ragazzina. Come ti chiami? È una promessa fra noi, giusto? Il conte trotterellò via perché aveva visto uno dei figli più grandi del contadino dall'altra parte del cortile. Mr. Gibson montò a cavallo e lui e Molly si misero in cammino. Per un po' non parlarono. Poi lei disse: Posso andarci, papà? Con un tono di voce lievemente ansioso. Dove, tesoro? Chiese lui, ridestandosi dai suoi pensieri di lavoro. Alle torri. Giovedì, sai. Quel gentiluomo, aveva timore di chiamarlo col suo titolo, me l'ha chiesto. Ti piacerebbe, mia cara? Mi è sempre sembrata una festa piuttosto stancante, direi proprio una giornata snervante. Inizia così presto, il caldo e tutto il resto. Oh, papà, protestò Molly. Dunque ci vorresti andare così? Sì, se posso. Mi ha invitata, vedi? Non pensi che potrei? Me l'ha chiesto due volte. Beh, vedremo, ma sì, penso che possiamo, se lo vuoi così tanto, Molly. Poi tacquero di nuovo. Dopo un po' Molly disse: Per favore, papà, io desidero andare, ma non mi interessa. Questo è un discorso proprio strano, ma immagino tu intenda dire che non è un problema non andarci se portarti ci costituisse un disturbo. Ma posso organizzare la cosa facilmente, perciò consideralo deciso. Ricorda, indosserai un abitino bianco. Meglio che tu dica a Betty che parteciperai, così lei ti metterà in ordine. Ora c'erano due cose che Mr. Gibson doveva fare prima di sentirsi del tutto tranquillo a lasciare andare Molly al ricevimento delle torri, e ciascuna di esse implicava un piccolo disturbo da parte sua. Ma l'uomo era molto ben disposto a dare una soddisfazione alla sua bambina. Perciò il giorno successivo cavalcò fino alle torri con il pretesto di visitare una cameriera ammalata, ma in realtà con l'intenzione di incrociare la padrona di casa e indurla a confermare l'invito fatto a Molly da Lord Kemnor. Scelse il momento con un accenno di naturale diplomazia, un atteggiamento che in verità doveva assumere spesso nelle sue relazioni con l'esimia famiglia. Cavalcò fino alle stalle, intorno a mezzogiorno, un po' prima dell'ora di pranzo, ma dopo che fosse terminata l'incombenza dell'apertura della posta e la discussione sul suo contenuto. Dopo aver sistemato il cavallo, entrò in casa d'arretro. Da quel lato era la casa, dalla parte della facciata le torri. Vide la paziente, diede indicazioni alla governante e poi uscì, portando in mano un raro fiore selvatico, per cercare in giardino una delle Lady Tenmere. E lì, proprio come sperava e come aveva calcolato, si imbatté anche il Lady Kemnor, che un po' parlava con la figlia a proposito del contenuto di una lettera aperta che teneva in mano, un po' dava ordini al giardiniere in merito a delle piante da trapiantare. Sono passato a visitare Nanny. E ho colto l'occasione per portare a Lady Agnes la pianta di cui le parlavo, che cresce nella brughiera di Kemnor. Grazie infinite, Mr. Gibson. Mamma, guarda! Questa è la drosera rotundifoglia che ho desiderato per molto tempo. Ah, sì, molto graziosa, direi. Ma io non sono esperta di botanica. Nanni sta meglio, spero. Non possiamo permetterci di avere una cameriera a letto la prossima settimana perché la casa sarà piena di gente. Ed ecco che i Denby scrivono per offrire la loro presenza. Si viene per passare la Pentecoste in tranquillità, lasciando in città metà degli impegni, e appena la gente sa che siamo qui, iniziamo a ricevere infinite lettere e tutti che anelano a una boccata d'aria di campagna e dicono quanto devono essere belle le torri in primavera. E devo riconoscere che la colpa di tutto questo è di Lord Kevnor. Perché non appena siamo qui, fa tutto il giro del vicinato per invitare le persone a trascorrere qualche giorno insieme a noi. Torneremo in città venerdì 18, interloquì Lady Agnes in tono consolatorio. Ah sì, non appena ci saremo occupate della faccenda delle visitatrici della scuola. Manca una settimana a lieto evento. A proposito, esclamò Mr. Gibson, approfittando dell'opportuna introduzione dell'argomento. Ieri a Crosstrees Farm ho incontrato Milord, il quale è stato così gentile da invitare la mia bambina, che era con me in quel momento, a partecipare alla festa di giovedì. La ragazzina ne sarebbe proprio contenta, credo. Fece una pausa per consentire a Lady Kemnor di replicare. Se Milord gliel'ha chiesto, immagino che debba venire, ma vorrei che lui non fosse così straordinariamente ospitale. Non che la bambina non sia la benvenuta, solo che vedete, l'altro giorno mio marito ha incontrato una giovane Miss Browning, della cui sola esistenza non avevo mai saputo niente. È una delle visitatrici della scuola, mamma, spiegò Lady Agnes. Ma forse sì, non l'ho negato. Sapevo che c'era una visitatrice di nome Browning, non sapevo ce ne fossero due, ma naturalmente, non appena Lord Kemnor ha appreso che ne esisteva un'altra, ha dovuto per forza invitarla. Così adesso la carrozza dovrà fare avanti e indietro quattro volte per andare a prendere tutti. Dunque, vostra figlia può partecipare senza alcuna difficoltà, Mr. Gibson, e per rispetto a voi sarò ben lieta di vederla. Può stringersi tra le Browning, suppongo. Vi metterete d'accordo con loro e badate di far tornare Nanny al lavoro per la prossima settimana. Proprio mentre Mr. Gibson se ne stava andando, Lady Kemnor lo chiamò. Oh, tra le altre cose, Claire è qui. Vi ricordate di Claire, no? Era una vostra paziente tempo fa. Claire? Ripeté lui con stupore. Non ve la rammentate? Miss Clare, la nostra vecchia istitutrice, disse Lady Agnes, 12-14 anni fa, prima che Lady Cuxhaven si sposasse. Ah, sì, fece lui. Miss Clare, che ebbe la scarlattina qui. Una ragazza graziosa, molto delicata. Ma pensavo si fosse sposata. Sì, confermò Lady Kemnor. Era una sciocchina e non sapevo quanto fosse fortunata. Le volevamo tutti un gran bene, questo è sicuro. Andò a sposarsi un povero curato e diventò una stupida Mrs. Kirkpatrick. Ma noi abbiamo sempre continuato a chiamarla Clara. E adesso il marito è morto, l'ha lasciata vedova e lei si trova qui con la figlioletta. Noi ci stiamo spremendo il cervello per cercare il modo di trovarle un'occupazione che le consenta di non separarsi dalla bambina. È da qualche parte, nel parco, se volete rinnovare la sua conoscenza. Grazie, Milady, ma temo di non potermi fermare oggi. Ho un lungo giro da fare. Mi sono trattenuta anche troppo, temo. Per quanto lungo fosse il suo giro, la sera l'uomo passò dalle signorine Browning per accordarsi sul fatto che Molly le accompagnasse alle torri. Erano due donne alte e belle, avevano passato la prima giovinezza ed erano inclini a un'estrema compiacenza nei confronti del medico vedovo. Per carità, Mr. Gibson, ma noi saremmo deliziate all'idea di portarla con noi. Non avreste neanche dovuto pensare a chiedercelo, disse Miss Browning Senior. Quel che è certo è che farò fatica a dormire la notte, commentò Miss Phoebe. Vedete, io non ci sono mai stata. Mia sorella spesso, ma in qualche modo il mio nome in questi 3 anni è sempre stato in fondo alla lista. La contessa non mi ha mai menzionata nel suo invito e sapete, non potevo certo farmi avanti io a presentarmi in quel luogo magnifico senza che mi fosse chiesto come potevo. L'anno scorso ho detto a Febe, intervenne la sorella, che ero sicura si trattasse solo di una svista, possiamo chiamarla così da parte della contessa, e che sua signoria si sarebbe proprio dispiaciuta quando non avesse visto Febe entrare nel gruppo delle visitatrici della scuola. Ma vedete, Mr. Gibson, Febe è molto sensibile e per quanto io dicessi, non è mai voluta venire ed è rimasta a casa. Cosa che mi ha rovinato il piacere della giornata, ve lo garantisco, a ripensare al viso di Febe dietro il vetro della finestra mentre io andavo via. Aveva gli occhi pieni di lacrime, credetemi. Mi sono fatto un bel pianto dopo che te ne sei andata, Sally, disse Miss Febe. Ciò non di meno, penso di aver avuto ragione a restare dov'ero, visto che non ero stata invitata. Cosa ne dite, Mr. Gibson? Certamente, approvò lui. E vedete, quest'anno potrete andare. E poi, l'altro anno è piovuto. Sì, mi ricordo. Avevo iniziato a riordinare i cassetti per rimettermi in sesto, diciamo, ed ero talmente indaffarata con ciò che stavo facendo che ho fatto quasi un sobbalzo quando ho sentito la pioggia battere contro il vetro. Santo cielo, mi sono detta. Cosa ne sarà delle scarpine di satin bianco di mia sorella? Se dovrà camminare sul prato inzuppato dopo un simile acquazzone. Perché vedete, avevo pensato a lungo a farle avere un paio di scarpe eleganti. E quest'anno lei mi ha fatto una sorpresa e mi ha regalato un paio di scarpe di satin bianco eleganti proprio come le sue. Molly saprà di dover indossare il suo abito migliore, raccomandò Miss Browning. Potremmo forse prestarle qualche perla o dei fiori di stoffa se lo desidera. Molly indosserà un lindo abito bianco, disse in fretta Mr. Gibson. Infatti non gradiva il gusto delle signorine Browning in fatto di abbigliamento e non voleva che la figlia si agghindasse secondo le loro fantasie. Riteneva che la sua anziana domestica, Betty, fosse più giusta per l'incarico perché era più semplice. Miss Browning ebbe proprio un lievissimo cenno di stizza nel tono della sua voce quando, raddrizzando le spalle, disse: «Ah, oh, benone!» Direi che siamo a posto. Ma Miss Phoebe aggiunse: Molly sarà molto graziosa, qualsiasi cosa indossi. Questo è sicuro. Capitolo 2. Una novizia fra la gente che conta. Alle 10 di quel memorabile giovedì, la carrozza delle Torri si mise in moto. Molly era pronta ben prima che questa facesse la sua prima comparsa, anche se si era deciso che lei e le signorine Browning sarebbero partite con l'ultima o la quarta corsa. Il suo viso era stato insaponato e strofinato ed era pulito fino a brillare. Le sue balze, il suo vestito e i suoi nastri erano tutti bianchi come la neve. Portava una mantellina nera che era appartenuta alla madre, era riccamente orlata di pizzo e appariva bizzarra e fuori moda indosso alla bambina. Per la prima volta nella sua vita, ella si infilò dei guanti di capretto, fino ad allora li aveva portati solo di cotone. Quei guanti erano fin troppo grandi per le sue piccole dita paffute, ma come disse Betty, le sarebbero dovuti durare per anni. Dunque andava bene così. La bimba rabbrividì spesso e una volta quasi ebbe un mancamento per l'attesa di quella mattina. Betty poteva parlare quanto voleva del fatto che se stai a guardare una pentola d'acqua, quella non bolle mai. Molly non smise un attimo di scrutare chi arrivava lungo la strada tortuosa e dopo 2 ore, finalmente, la carrozza passò a prendere anche lei. Dovette sedersi molto in avanti per evitare di sgualcire gli abiti nuovi delle signorine Browning, ma non troppo avanti per paura di recare disturbo alla grassa Mrs. Goodenough e a sua nipote che occupavano il sedile opposto. In definitiva, la piccola si chiedeva se fosse insomma il caso di sedersi e per accrescere il suo disagio ella si sentiva collocata bene in vista al centro della vettura, esposta agli sguardi di Hollingford. Era un giorno di festa troppo importante perché le attività della cittadina si svolgessero con la consueta regolarità. Le domestiche osservavano dalle finestre dei piani superiori. Le mogli dei commercianti erano ferme sulla soglia. Gli abitanti dei cottage correvano fuori con i bambini in braccio e i più piccoli, troppo giovani per sapere come comportarsi nel modo giusto a cospetto della carrozza del conte, gridavano «Evviva!» con gioia mentre questa correva via. La donna al padiglione tenne il cancello aperto e sprofondò in una riverenza alla vista della livrea. Ed eccole dunque nel parco. E poi videro le torri e sulla carrozza piena di signore cadde il silenzio, interrotto solo da un debole commento della nipote di Mrs. Goodenough, che era forestiera, mentre si avvicinavano al doppio semicerchio di gradini che conducevano all'ingresso della magione. «La chiamano scalinata, credo, non è vero?» chiese. Ma la sola risposta che ricevette fu un shh all'unisono. Era davvero spaventoso, pensò Molly, che quasi quasi desiderò essere di nuovo a casa, ma poi piano piano fu vicina a perdere coscienza di sé quando la festa si srotolò nei bellissimi giardini. Non aveva mai immaginato niente di simile. Prati verdi e vellutati, baciati dal sole, si estendevano in ogni direzione, fino al bel parco boscoso. Se c'erano interruzioni o fossi fra le tenere distese d'erba assolata e il buio cupo della foresta più lontano, Molly non li vedeva. E il fondersi delle squisite coltivazioni nella vegetazione selvaggia la affascinava in modo inspiegabile. Vicino alla casa c'erano muretti e recinzioni, ma erano ammantati di rose rampicanti, di meraviglioso caprifoglio e di altre parietarie sul punto di sbocciare. C'erano anche delle aiuole, scarlatte, cremisi, azzurre, arancioni e sull'erba una profusione di fiori. Molly strinse forte la mano di Miss Browning mentre gironzolavano qua e là in compagnia di molte altre signore guidate da una delle figlie delle torri, che sembrava quasi divertita dalla loquace ammirazione che veniva spesa su ogni possibile oggetto e su ogni possibile luogo. Molly non disse nulla, come era giusto data la sua età e la sua posizione, ma di quando in quando si liberava il cuore dalla sua morsa facendo un lungo respiro, quasi un sospiro. Di lì a poco giunsero alla lunga e scintillante fila di serre in cui un giardiniere le fece entrare. A Molly queste non interessavano neanche la metà dei fiori all'aria aperta, ma Lady Agnes aveva una sensibilità scientifica e disertò sulla rarità di questa specie e sui modi di coltivazione di quest'altra, fino a che Molly si sentì molto stanca e molto debole. Era troppo timida per parlare e tacque per un po'. Ma alla fine, timorosa di dare scandalo mettendosi a piangere o peggio, cascando su preziosi fiori, prese la mano di Miss Browning e ansimò. Posso tornare fuori, in giardino? Non riesco a respirare qui. Certo, amore, vai pure. Direi che è un po' difficile da capire per te, tesoro, ma è tutto molto bello e istruttivo. E c'è persino un sacco di latino. Si voltò immediatamente per non perdere un'altra parola della lezione che Miss Agnes stava tenendo sulle orchidee e Molly si diresse all'uscita, fuori da quel caldo. Si sentì meglio all'aria fresca e lontana dagli sguardi, in libertà passeggiò tra un angolo delizioso e l'altro, ora nel vasto parco, ora nelle aiuole di fiori recintate, dove gli unici suoni erano il canto degli uccelli e la voce della fontana centrale. E le cime degli alberi formavano una cornice sull'azzurro cielo di giugno. Proseguì senza curarsi di dove andasse, come una farfalla che vola di fiore in fiore, finché alla fine si stancò tantissimo. Desiderò tornare in casa, ma non seppe più come fare e si spaventò all'idea di incontrare, senza la protezione di nessuna delle due signorine Browning, tutti gli sconosciuti che di certo si trovavano lì. Il sole caldo le batteva sul capo, che cominciò a dolerle. Vide un grande e ampio cedro ergersi su una lieve altura del prato verso la quale si stava dirigendo e fu attirata dalla fresca quiete sotto i suoi rami. C'era una ruvida panchina lì all'ombra e Molly, esausta, vi si sedette e poco dopo si addormentò.